Girai fin quasi alla nausea. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Non riuscii a dormire per tutta la notte. Una sirena da nebbia lanciò senza posa il suo lamento nello stretto e io mi rigirai fin quasi alla nausea tra una realtà grottesca e sogni di una furia terrificante. Verso l'alba udii un taxi risalire il viale di Gatsby e saltai all'istante giù dal letto e cominciai a vestirmi. Sentivo di avere qualcosa da dirgli, qualcosa da cui metterlo in guardia, e al mattino sarebbe stato troppo tardi. Nell'attraversare il prato mi accorsi che la sua porta d'ingresso era ancora aperta e vidi lui chino su un tavolo nell'atrio, appesantito dall'oscuramento e dal sonno. «Non è successo niente», disse con voce stanca. «Ho aspettato e intorno alle 4 lei è venuta alla finestra e è rimasta affacciata per un minuto e poi ha spento la luce». La sua casa non mi era mai parsa tanto immensa come quella notte, mentre ci aggiravamo per le sue ampie stanze a caccia di sigarette. Scostammo tende enormi come padiglioni e tastammo metri su metri di pareti buie per scovare qualche interruttore della luce. A un certo punto inciampai, generando uno spruzzo di note sopra i tasti di un pianoforte fantasma. C'era una quantità inesplicabile di polvere dappertutto, e le stanze odoravano di chiuso come non venissero arieggiate da molti giorni. Trovai l'umidificatore. Era appoggiato su uno strano tavolo e conteneva due sigarette vecchie e rinsecchite. Spalancammo le porte finestre del soggiorno e ci sedemmo a fumare nell'oscurità. «Dovresti andartene», dissi. «Rintracceranno l'auto di sicuro». «Andarmene adesso, vecchia Lenza. Vai ad Atlantic City per una settimana, oppure su a Montreal». Non ci pensava nemmeno. Era del tutto escluso che abbandonasse Daisy prima di sapere cosa aveva intenzione di fare. Si stava aggrappando agli ultimi brandelli di speranza e non me la sentivo di scuoterlo affinché mollasse la presa. Fu quella notte che mi raccontò la strana storia della sua giovinezza con Dan Cody. Me ne parlò perché Jay Gatsby si era infranto come uno specchio nello scontrarsi con la dura malignità di Tom e sulla maestosa messa in scena a lungo segreta era calato il sipario. Credo che avrebbe ammesso qualunque cosa adesso e senza riserve, ma voleva parlare di Daisy. Era la prima ragazza a modo che avesse mai conosciuto. Sotto varie e mentite spoglie, gli era già capitato di entrare in contatto con persone simili. Ma un'impercettibile barriera di filo spinato si era sempre frapposta fra lui e loro. La trovò desiderabile alla follia. Andò a casa sua la prima volta in compagnia di altri ufficiali di Camp Taylor, quindi da solo. Restò sbalordito. Non era mai entrato in una casa tanto bella. Ma a donarle un'intensità da togliere il respiro era il fatto che ci vivesse Daisy. Per lei era un ambiente normale come per lui lo era la sua tenda da campo. C'era un mistero pungente in quella casa, un sentore di stanze da letto di sopra, più belle e più ariose di altre stanze da letto, di attività spensierate radiose che avevano luogo nei suoi corridoi, e di idilli non ammuffiti e messi sotto naftalina, bensì ancora freschi, vivi, odorosi delle auto scintillanti di quell'anno e di balli i cui fiori non erano ancora appassiti. Lo eccitava anche che molti uomini avessero già amato Daisy. La rendeva più preziosa ai suoi occhi. Avvertiva la loro presenza in ogni angolo della casa e nell'aria che vi si respirava, impregnata di ombre ed echi di emozioni tuttora vibranti. Ma sapeva di essere entrato in casa di Daisy per un caso straordinario. Per quanto glorioso avesse potuto rivelarsi il suo futuro come Jay Gatsby, al momento era un giovanotto scannato e senza un passato, e il mantello invisibile dell'uniforme poteva scivolargli dalle spalle da un istante all'altro. Così sfruttò al meglio le occasioni, prese quello che poté, con rapacità e spregiudicatezza. Si prese anche Daisy, alla fine, in una sera d'ottobre, senza vento. La prese proprio perché non aveva nessun diritto di sfiorarle la mano. Avrebbe dovuto disprezzarsi, giacché l'aveva di certo presa con l'inganno. Non voglio dire che si fosse vantato di milioni che non aveva, ma aveva volutamente comunicato a Daisy un senso di sicurezza. Le lasciò credere che fosse una persona del suo stesso rango, che fosse pienamente in grado di prendersi cura di lei, quando di fatto non disponeva di simili possibilità. Non aveva nessuna famiglia agiata alle spalle ed era esposto al capriccio di un governo indifferente, pronto a scaraventarlo in qualunque posto del mondo. Ma non si disprezzava e le cose non presero la piega che lui aveva immaginato. Probabilmente le sue intenzioni erano state di afferrare quel che poteva e andarsene. Scoprì invece di essersi destinato all'inseguimento di un santo Graal. Sapeva che Daisy era straordinaria, ma non si era reso conto di quanto potesse essere straordinaria una ragazza a modo. Svanì nella sua ricca dimora, nella sua ricca e pienissima vita, lasciando a Gatsby il nulla. Si sentì sposato a lei, tutto qua. Quando tornarono ad incontrarsi 2 giorni più tardi, era Gatsby quello senza fiato, quello che in qualche modo si sentiva tradito. La veranda di Daisy riluceva del dispendioso sfarzo delle stelle. Il divano di Vimini emise un pigolio elegante quando lei si voltò e lui baciò la sua bocca curiosa e incantevole. Si era presa un raffreddore che le aveva arrocchito la voce rendendola più fascinosa che mai. E Gatsby era immensamente consapevole della gioventù e del mistero che la ricchezza imprigiona e preserva, e della freschezza di tanti vestiti, e di come Daisy scintillasse alla maniera dell'argento, tronfia e sicura, al di sopra delle lotte infuocate dei poveri. Non ho parole per dirti quanto fui sorpreso nello scoprire che l'amavo, vecchia Lenza. Per un po' ho persino sperato che lei mi mollasse, ma non lo fece. Perché anche lei era innamorata di me. Pensava che avessi molta esperienza perché conoscevo cose diverse da quelle che conosceva lei. Insomma, eccomi lì. Avevo accantonato le mie ambizioni. Ero ogni minuto più innamorato di prima e tutto a un tratto non me ne importava nulla. Che senso aveva fare grandi cose se trovavo maggiore godimento nel parlarle di quelle che dovevo ancora fare? Il pomeriggio prima di partire per il fronte, restò seduto con Daisy tra le braccia per un tempo lungo e silenzioso. Era un freddo giorno d'autunno e le guance di lei avvampavano al calore del camino acceso. Ogni tanto lei si spostava e lui cambiava la posizione del braccio e una volta le baciò i capelli neri e lucenti. Il pomeriggio aveva regalato loro un po' di tranquillità, quasi a lasciargli un ricordo intenso in vista della lunga separazione che li attendeva il giorno seguente. Non erano mai stati così vicini nel loro mese d'amore, né avevano comunicato con tanta profondità come quando lei sfiorò con le labbra silenziose la spallina della sua giacca, o quando lui le toccò l'estremità delle dita con delicatezza, quasi avesse paura di svegliarla. Se la cavò straordinariamente bene in guerra. Prima di andare al fronte era capitano e a seguito della battaglia dell'Argonne ottenne il grado di maggiore e il comando dei mitraglieri della divisione. Dopo l'armistizio si sforzò in ogni modo di tornare a casa, ma per via di qualche complicazione o forse di un equivoco fu invece spedito a Oxford. Era in ansia adesso. Dalle lettere di Daisy traspariva un nervosismo disperato, non capiva perché lui non tornasse. Avvertiva su di sé la pressione del mondo esterno e voleva vederlo, sentire al proprio fianco la sua presenza ed essere rassicurata che stava facendo la cosa giusta, tutto sommato. Perché Daisy era giovane e il suo mondo artificiale era redolente di orchidee, di uno snobismo amabile e giocoso e di orchestre che scandivano il ritmo dell'anno, riassumendo in nuovi motivi le tristezze e i lati suggestivi della vita. Tutta la notte i sassofoni suonavano con passione il commento disperato del Beale Street Blues, mentre un centinaio di scarpette d'oro e d'argento rimescolavano la polvere luccicante. Alla malinconica ora del tè c'erano sempre stanze che pulsavano di una febbre dolce e sommessa, mentre visi freschi si trascinavano di qua e di là come petali di rosa sospinti lungo il pavimento dal suono triste dei fiati. Daisy tornò a frequentare questo universo crepuscolare con l'arrivo della nuova stagione. D'improvviso si ritrovò a prendere mezza dozzina d'appuntamenti al giorno con mezza dozzina di uomini diversi e a scivolare nel sonno all'alba con i fili di perle e lo chiffon dell'abito da sera attorcigliati sul pavimento accanto al letto, assieme a orchidee appassite. Dentro di lei si agitava qualcosa che non smetteva di reclamare una decisione. Voleva che la sua vita prendesse una forma adesso, subito, e la decisione doveva essere sollecitata da una forza a portata di mano, dall'amore, dal denaro, da un bisogno insindacabile di concretezza. Quella forza prese forma a metà primavera con l'arrivo di Tom Buchanan. C'era una sana imponenza nella sua persona e nella sua posizione e Daisy ne restò lusingata. Senza dubbio fu combattuta e sollevata al contempo. La lettera raggiunse Gatsby quando era ancora a Oxford. Era ormai l'alba a Long Island e facemmo il giro del piano inferiore per aprire le altre finestre, riempiendo la casa di una luce grigiastra tendente a loro. L'ombra di un albero si stese di colpo sulla rugiada e uccelli spettrali cominciarono a cantare tra le foglie blu. L'aria era smossa da una brezza placida e gradevole, un accenno di vento che prometteva un fresco delizioso per la giornata. «Sono convinto che non l'abbia mai amato». Gatsby diede le spalle a una finestra e mi lanciò un'occhiata di sfida. «Non puoi non ricordare, vecchia Lenza, era tutta in subbuglio ieri pomeriggio. Lui le ha detto quelle cose in un modo che l'ha spaventata, mi ha fatto apparire come un imbroglione da 4 soldi. Il risultato è stato che lei non ha saputo più cosa andava dicendo». Si mise a sedere sconfortato. «Certo, deve esserci stato un momento in cui l'ha amato, ma sarà stata questione di un minuto, appena sposati, e comunque, anche allora, amava più me, capisci?» D'improvviso se ne uscì con un'osservazione curiosa. «In ogni caso, disse, era soltanto una cosa personale». Cos'altro pensare se non che vedeva in quel rapporto un'intensità impossibile da misurare? Tornò dalla Francia quando Tom e Daisy erano ancora in luna di miele e fece un viaggio penoso e ineluttabile a Louisville, dando fondo a quanto gli era rimasto della paga di militare. Vi restò una settimana, passeggiando per le strade in cui i loro passi avevano risuonato in quella sera di novembre e rivisitando i posti appartati dove si erano recati con la sua auto bianca. Allo stesso modo in cui la casa di Daisy gli era sempre parsa più misteriosa e allegra delle altre, così la sua idea della città stessa, malgrado lei l'avesse lasciata, era pervasa da una bellezza malinconica. Se ne andò con la sensazione che se l'avesse cercata con maggiore impegno, l'avrebbe trovata, che stava partendo senza di lei. Nella carrozza di terza classe non aveva più un soldo adesso, faceva un gran caldo. Uscì sulla predella in fondo al vagone, sedette su un seggiolino. La stazione scivolò via lasciando il posto a una sfilata di edifici sconosciuti. Si gettarono poi tra i campi primaverili, dove li inseguì per un po' un tram giallo i cui passeggeri, girando per strada, potevano forse essersi imbattuti un tempo nel pallore magico del volto di Daisy. Il binario curvava, allontanandosi dal sole che nel tramontare sembrava spargere la propria benedizione sulla città ormai all'orizzonte, la città in cui lei aveva respirato. Gatsby tese la mano in un gesto disperato, come volesse agguantare un brandello d'aria, salvare un frammento del posto che lei aveva reso così incantevole ai suoi occhi. Ma le cose si muovevano troppo veloci adesso per il suo sguardo appannato, e si rese allora conto che la parte migliore di quei luoghi, la più bella e fresca, era perduta per sempre. Erano le 9 quando finimmo di fare colazione e uscimmo sulla veranda. La notte aveva segnato un netto cambio di rotta nel tempo e si coglieva un tono autunnale nell'aria. Il giardiniere, l'unico sopravvissuto della precedente servitù di Gatsby, venne ai piedi della scalinata. «Oggi svuoto la piscina, signor Gatsby. Presto cominceranno a cadere le foglie e ci sono sempre problemi con le tubature». «Non oggi», rispose Gatsby. Si voltò verso di me come per scusarsi. «Non ho usato la piscina nemmeno una volta quest'estate, ti rendi conto, vecchia Lenza?» Controllai l'orologio e mi alzai. «Ho il treno tra 12 minuti». Non volevo andare in città. Non ero in condizione di lavorare in maniera decente. Ma c'era un motivo più serio di questo, non volevo lasciare Gatsby da solo. Persi quel treno e il successivo, prima di riuscire ad andare via. «Ti chiamo», dissi infine. «Ci conto, vecchia Lenza. Ti chiamo verso mezzogiorno». Scendemmo la scalinata a passi lenti. «Immagino chiamerà anche Daisy», mi lanciò un'occhiata ansiosa come sperasse in una mia conferma. «Immagino di sì. Beh, ci vediamo». Ci stringemmo la mano e mi avviai. Un attimo prima di raggiungere la siepe mi rammentai di qualcosa e mi girai. «Sono gentaccia!» gridai dal prato. «Vali più tu di tutta quella dannata congrega messa assieme!» Sono sempre stato felice di averlo detto. Fu il solo complimento che gli abbia mai rivolto, perché lo disapprovavo da cima a fondo. Dapprima annuì garbatamente col capo, quindi il suo volto si allargò nel raggiante sorriso d'intesa, come se quella faccenda ci avesse sempre visti uniti da una complicità estatica. Il rosa fastoso di quella specie d'abito risaltava come una macchia di colore acceso contro i gradini bianchi, e ripensai alla sera di 3 mesi addietro, quando ero entrato per la prima volta nella sua casa a vita. Il prato e il viale erano gremiti delle facce di coloro che facevano congetture sulla sua corruzione, e lui si ergeva su quei gradini, scodendo il senso sogno sui corruttibili nel salutarli con la mano. Lo ringraziai per l'ospitalità. Lo ringraziavamo sempre per questo, io e gli altri. «Ci vediamo!» gridai. La colazione era ottima, Gatsby. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love. All my thoughts are you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. You know that I love you, and what love. Reads above you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life, yours, love. Don't explain.